22:47 minuti primi, le frequenze di Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. E mi sembra, ma non ho la certezza, forse ve lo ricordate meglio voi, che la scorsa settimana avevamo annunciato che avremmo questa sera presentato un ospite in studio, ovviamente. Una iniziativa che si terrà il prossimo fine settimana da parte di, vabbè, poi ve lo diremo via via andando la trasmissione, di alcuni esponenti di un collettivo giovane, nel senso di formato da qualche mese, che si vede da qualche mese, e che ci verrà a raccontare un po' le iniziative di sabato e domenica e un po' venerdì e sabato. Sorry. E un po' pure la storia che li ha portati appunto a questa iniziativa. Allora, intanto vi ricordo che siete all'ascolto, come dicevamo poc'anzi, di Onda Rossa sugli 87.9 della banda romana e laziale, che questa emittente, Radio Onda Rossa, è una radio che vive dal 1977, libera, autogestita, autofinanziata, perché chi permette alla radio di trasmettere siete e siamo tutti e tutte noi. Che a vario titolo e in diversi modi ci occupiamo anche del finanziamento della radio. Ci saranno un paio di iniziative proprio a tal proposito della radio a novembre. Al momento una cena e un concerto, quello del 9 di novembre con Serpe in Seno e Orasi, quel del Forte. Avremo modo appunto di parlarne da qui nelle prossime settimane. Ricordo che la radio ha un sito web www.ondarossa.info, dove vi consigliamo, forse quasi vi minacciamo, di andare a visitarlo, che ci sta dentro un po' tutte le notizie importanti sulla radio, che ci stanno dentro le news invece, che le trasmissioni, i podcast che la radio autoproduce, i più salienti sono riportati nel sito. Che ci sta un tastino che andate a cliccare, ci sta scritto sottoscrivi, ci sta una paginetta dove potrete trovare tutte le modalità per sottoscrivere per codesta emittente. Io ci piace farlo da sempre, dire, perché è un po' così una deformazione, quello che è il numero del conto corrente postale della radio, 6180 40 01, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, 00185, Roma, San Lollo, via dei Volsci 56. E questo è proprio l'indirizzo della radio, al primo piano. Quando di giorno ci volete venire a trovare, la radio è sempre aperta, e magari portate anche il vostro contributo. Vi ricordo pure la mail della redazione della radio, ondarossa@ondarossa.info, per mandare appunto le vostre comunicazioni. 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritta al numero 25 o'clock@ondarossa.info, invece la mail per sottoporci quelle che sono le vostre osservazioni, ma anche i vostri suoni a questo spazio radiofonico. E infine infine vi ricordiamo quello che è un altro numeretto storico della radio che sapete tutte e tutti a memoria, ormai ascoltatori e ascoltatrici da tanti anni. È il contatto telefonico che vi dovete impegnare a fare trillare questa sera, illuminare di rosso le redazioni della radio più rossa che c'è. 06 4917 50, il telefono della radio. E noi vabbè, iniziamo per ora con un qualche chiacchiera riguardo a quello che sarà l'iniziativa che faremo dire ai nostri ospiti, e poi ovviamente alternata a quelle che saranno le band che suoneranno. Eccoci qua, quindi in diretta. Non abbiamo provato i microfoni, al solito lo facciamo così al volo, se volete dire se ci siete. Io. Ciao ragazzi. Eccoci. È incredibile, la radio del 2018 funziona, funziona. È una delle poche cose. Vabbè. Sì, dai, presentiamoci così velocemente e ricordiamo innanzitutto il titolo dell'iniziativa che già molti e molte hanno sentito nominare, perché sta girando un po' la voce, e poi l'andremo così a raccontare in dettaglio per filo e per segno. E ciao a tutti e a tutte. Allora, l'iniziativa si chiamerà Tilt Fest. Si chiamerà Tilt Fest perché non so se avete visto sulla locandina che gira per le strade e per l'etere, insomma, c'è un flipper con tutta monnezza che a noi non ci piace, tipo banche, tipo soldi, tipo odio. No, l'odio può essere che ci piace pure. Vabbè, insomma, con tanta monnezza che ci piace e che non ci piace. E il festival si chiama Tilt proprio perché l'idea è quello di mandare in tilt il flipper, che appunto per i più giovani, però ricordiamo cos'era il flipper, perché sì, il flipper è quel meccanismo. È quel meccanismo dove buttavi tantissimi soldi, però ti divertivi tantissimo. Dove c'era una pallina che girava. Adrenalina, esatto, esatto. Tante bestemmie, tanta adrenalina. E il tilt, quando si giocava al flipper, era quando appunto il flipper un po' si intrippava e appunto andava in tilt e non potevi più muovere niente. E quindi l'idea è esagerato, diciamo, nello spingere andava in tilt. Esatto, e quindi l'idea nostra è su questo flipper è rappresentato il sistema che a noi non piace per una serie di motivi, e l'idea di chiamarlo Tilt Fest era proprio perché volevamo mandare in tilt il sistema, forse un po' pretenzioso, però volevamo un po' giocare su sta cosa qui, insomma. E appunto, come ha detto Fefo, non mi ricordo mai i nomi, e siamo un collettivo che è nato da qualche mese, da aprile, diciamo, prima ce lo stavamo ricordando tra di noi, e ci chiamiamo NNS, non necessariamente superficiali. Questo collettivo è nato un po' da, dato che è un collettivo auto-organizzato, è nato da una spinta che è venuta da più persone, in cui le quali, senza parlarsi, si sono ritrovati a parlare e a discutere di determinati argomenti e determinate cose, e questo ha portato sì che il collettivo diventasse, da vari individui che per strada parlavano di certe cose, è diventato un collettivo, insomma. Sì, insomma, è nato da alcune esigenze, quella di ricominciare un po' a organizzare iniziative, concerti nelle occupazioni, negli spazi autogestiti, cosa che alcune di noi avevano sempre fatto in passato, però in modo più frammentario, diciamo, e tutti quanti sentivamo un po' di stanchezza in qualche modo in quella che era la scena do it yourself, che si è sempre appunto espressa nelle occupazioni e in contesti schierati politicamente in senso libertario, e quindi ci siamo ritrovati un po' per caso, appunto sulla base di questa esigenza abbiamo iniziato a organizzare delle cose e finora ci stiamo divertendo un sacco, quindi siamo molto contenti. Funziona. Sì, funziona, anche perché io personalmente, per esempio, per anni stupidamente ho sempre pensato che le assemblee fossero una cosa un po' noiosa, così, che palle. Invece tra di noi si è creata comunque una bella cosa, una bella sintonia, e niente, è proprio bello andare in assemblea. Io quando ancora non facevo parte di nessun collettivo e non avevo fatto nessuna assemblea o pochissime, pensavo fosse un po' la rottura dei coglioni. Invece tra di noi ci troviamo molto bene e ci siamo ricavati appunto uno spazio dove almeno una volta alla settimana non facciamo migrazioni e parliamo un po' di cose. Però ecco, appunto, pure il nome che vi siete dati del collettivo stesso riflette un po' quello che sì, adesso appunto dispiegato. Appunto il nome è, cioè l'acronimo è NNS, che è non necessariamente superficiale. Che però uno può pure non dirlo, perché no, sono quelli dell'NNS, suona bene. Diciamo, no, ognuno decide esatto che cosa vuol dire. Dopodiché c'è una cosa iniziale che, diciamo, uno ha scelto quel nome. Sì, non necessariamente superficiale, proprio perché tra le cose che appunto ci dicevamo c'era quella di non dare per scontati alcuni temi, alcune parole che spesso ci ritroviamo in bocca, però a volte a forza di ripeterli in svariati contesti possono perdere di significato, perché magari appunto non ci pensiamo mai a fondo e diamo troppo per scontato alcune cose. Per esempio banalmente, forse non banalmente, qualche assemblea fa abbiamo parlato che cos'è l'autogestione oggi, per esempio. Che uno parla sempre, sì, facciamo autogestione, il DIY, sì. Ma che vuol dire il DIY oggi? Che vuol dire il DIY? Punto. E quindi un po' non siamo degli intrippati, però insomma vogliamo dare risalto ad alcune tematiche che ci stanno a cuore, partendo dal presupposto di non trattarle in modo superficiale, queste tematiche, come se fossero già date dall'esperienza di qualcun altro, insomma. Perfetto. Allora, io, se non vi dispiace, partirei subito con una piccola interruzione delle chiacchiere, andando invece ad ascoltare l'altra parte, poi, che penso anche nelle discussioni vi siete dati, cioè quella, come dicevate in precedenza, anche di voler fare delle iniziative, organizzare degli eventi, dei concerti, delle cose piccole o grandi che siano, però che diano pure che siano in continuum con le discussioni e con poi i temi e i problemi che vi dovete affrontare come collettivo. Che andiamo ad ascoltare, visto che così poi dopo introduciamo il Tilt Fest magari con più precisione. Vogliamo ascoltare gli Atro, che è un gruppetto di Roma, dei amici nostri, che si sono formati pure loro da poco. Allora, Atro, troviamo una traccia che ci prepariamo a mandare. Anche questo è un nome curioso e allo stesso tempo ironico, perché il loro lavoro si chiama Demone, con Demo come Demo e Ne come Demone, poi viene fuori, e questa è la traccia numero 3, che si chiama appunto 3, che adesso partirà fra poco. Allora, siamo in ambito hardcore. Prima con Atro, adesso invece che cosa stiamo ascoltando? Aspetta che non si sente, vai. Carlos Dunga. Ok. Sono un gruppo di Firenze, tra i tre gruppi di Firenze che verranno sabato. Che verranno sabato. E abbiamo messo i piedi nel piatto, cioè poi magari con faremo degli incisi, ritorneremo a parlare del collettivo, insomma facciamo al solito il nostro popurrì serale, notturno. Veniamo un attimo al Tilt Fest, così lo introduciamo per quello che è, e diciamo facciamo un servizio, perché poi andremo avanti un altro po', insomma, quindi chi vuole andare a fare la nanna, intanto già gli diciamo la cosa importante e imminente che c'è. Tilt Fest. Allora, venerdì e sabato, dal Ben ci vengo occupato, sono due giornate in cui ci saranno tanti gruppi, diciamo 7-8 gruppi per giorno. E insieme ai gruppi però ci saranno anche delle performance, delle mostre, e ci sarà l'ingresso a sottoscrizione libera benefit per l'operazione Panico, di cui magari parleremo più tardi. E la cena sarà Bella Vita, perché è un qualcosa che stiamo provando a portare avanti nelle nostre iniziative, ovvero ognuno porta un qualcosa da condividere, diciamo proviamo appunto un po' a scardinare la logica del l'essere serviti, diciamo, al concerto, all'iniziativa, ma appunto ci piacerebbe che fosse un momento di condivisione. Sì, questa la cosa della Bella Vita è una cosa che abbiamo portato avanti fin dalla prima iniziativa, e anche perché una delle cose che appunto vogliamo portare avanti con il collettivo è di rivivere le iniziative con una certa socialità. E le prime iniziative che abbiamo fatto erano pomeridiane di domenica, Bella Vita, con entrata a sottoscrizione, e anche diciamo la parte di beveraggio era Bella Vita, proprio per scardinare quella cosa che uno va al concerto, si ubriaca, non parla, va a casa alle 4 di mattina. Invece volevamo un po' ricreare degli spazi di socialità nei quali potevano esserci non lo so, dei confronti tra le persone che venivano, che non erano invasi dalla musica in tutto e per tutto, e anche perché vorremmo portare avanti questa cosa che non c'è chi ti serve, l'iniziativa è fatta non dal collettivo che l'ha creata e l'ha portata avanti, ma è fatta soprattutto dalle persone che vengono, e questa cosa si ripercuote anche nella visione degli spazi che abbiamo noi, ovvero gli spazi sono dei posti fisici che, cioè, sono ovviamente dei posti fisici, ma lo spazio in quel momento è fatto dalle persone che ci stanno dentro, e anche noi nel nostro piccolo vogliamo fare questa cosa qui, ovvero riportare le persone negli spazi con una certa logica, diciamo, se così posso dire, insomma. Non so se, vabbè, poi tanto parlando anche dei vari gruppi che interverranno avremo modo di ritornare nello specifico su Tilt Fest, però queste cose che avete detto un po', e che hai detto anche prima, in queste cose traspariva comunque un percorso, che è un po' il percorso poi che credo il collettivo abbia intrapreso. Un attimo solo. Rientrava un fischio un po' fastidioso, dicevo, traspare appunto quella che è un po' la logica, come dicevi te, del collettivo, che si propone di relazionarsi con gli altri. Ecco, però questa cosa qui, a quanto più o meno avete accennato, e mi piacerebbe affrontare e approfondire un po' quello, l'argomento nasceva da una sensazione, usiamo una parola usavamo molto, di disagio, o comunque di criticità, cioè c'è qualcosa che non andava in realtà, una cosa che magari di cui partecipavamo un po' tutti noi, no, ci stavamo dentro, la facevi, però ti lasciava un po' quel senso di insoddisfazione, no? Ecco, qual è, con quella le descrivereste voi questa roba qui, che poi è un po' quello che vi ha animato questa sensazione qui, e come la state sciogliendo poi nelle varie nella discussione non sempre superficiale che fate nelle vostre nei vostri incontri, nelle vostre riunioni, anche nei concerti, a questo, questo progredire di questi mesi di attività. Sì, diciamo che uno dei motivi, se non il motivo per il quale inizialmente era nato questo collettivo, nasceva dalla riflessione che a volte ci ritrovavamo a stare in concerti che potevano essere in spazio, in locali, e a fine serata tornavo a casa e dicevo sì, però sì, ho visto il concerto punk, tutti belli, tutti acchittati, però alla fine non mi è rimasto più niente, insomma, cioè, se andavo in una qualsiasi serata, in un qualsiasi locale, insomma, una certa ripetitività sì, c'era il consumatore che andava, si divertiva, beveva, tornava a casa, insomma, se il mio io non mi sono mai professato anche un punk, anche però in posti, diciamo, che avrebbero dovuto essere antagonisti, esatto, alternativi, fuori norma, occupati, come... Ma il rischio di quella sensazione c'è anche nell'organizzarle le cose a volte, cioè non solo nel usufruirne in qualche modo, ma appunto spesso proprio dando per scontate troppe cose, ci si ritrova, come dire, a ripetere poi un copione che è sempre lo stesso nelle modalità, insomma, con tutta una serie di punti fermi che sono dati a prescindere, diciamo, di cui però poi appunto si perde il senso in qualche modo ripetendoli e basta, senza ritornarci in qualche modo, rimetterli in discussione, capire perché sono validi, quanto sono ancora validi, che cosa ci interessa di queste cose, che cosa ci danno poi veramente, insomma. E quindi sicuramente, diciamo, nel gruppo si è creata una buona vibrazione in qualche modo, nel senso che tutti quanti abbiamo questo spirito bene o male interlocutorio, cioè nessuno vuole dare risposte, nessuno pensa di avere già tutto bello, chiaro, definito, insomma, ma è un po' uno spirito di ricerca collettiva, e quindi è un po' questo spirito che ci sta accompagnando, che secondo me sta arricchendo le cose che facciamo, insomma, niente di nuovo, nel senso tutte le cose che facciamo sono già state fatte sicuramente, però ci sentiamo che le stiamo in qualche modo rifacendo da zero, e quindi con lo spirito giusto. E dal punto di vista proprio pratico, perché poi appunto queste idee, questo malessere interiore, magari è un po' troppo, insomma, questa sensazione, no, di... lo è, ecco, ok. Questo malessere interiore appunto deve essere risolto in qualche maniera, e le cose che ci hai brevemente elencato nel Tilt Fest, ma anche nelle altre iniziative, magari ci raccontate pure un po' più dettagliatamente di quelle, quali sono appunto le messe in pratica di questa roba qui? Fare appunto un servizio di cucina, no? In cui uno mangia, però penso uno deve prendere il piatto da solo, o magari si travalica pure questo fatto che uno sta dietro il bancone a mettere birre e l'altri stanno là a imbriacarsi, a pogare e a buttare birre per terra, e poi qualcuno la sera deve pulire. Ecco, in tutta questa dinamica, quali sono le pratiche che avete messo in campo? Cioè, qual è l'atteggiamento, le pratiche, cosa vi dite, cosa succede nel pratico? Sì, nelle iniziative che abbiamo fatto, soprattutto le prime due, che secondo me sono un po' anche le più rappresentative dell'anima del collettivo, non c'era il bancone, per esempio, e ogni persona, compresi noi, portavamo da bere, portavamo da mangiare, lo mettevamo in mezzo e non c'era il bancone, c'erano dei piatti che te lavavi da solo e niente, la roba era lì, non c'era una grande differenza tra chi era all'interno dell'organizzazione e ha chi... messo l'idea, chi organizzava metteva l'idea. Sì, noi abbiamo messo un po', solo un po' di brace, però per il resto, la diciamo, logistica più spicciola, esatto, per il resto e quello che è successo è che appunto tutte le persone che venivano alle iniziative erano parte quanto noi, nemmeno dell'iniziativa stessa, insomma, non c'era questa cosa che il collettivo organizza, perciò il collettivo fa sì che tu abbia la birra fredda sempre. No, la birra, se te la volevi fredda, la andavi a comprare e la mettevi in mezzo, e poi quella birra non era più la tua, era la birra, se la beveva qualcun altro, insomma, non un aspetto di condivisione, insomma. Okay. Sì, anche perché sennò il rischio di veramente proporre quella che è come la programmazione di un locale comunque è forte, cioè nel momento in cui organizzi concerti, se organizzi concerti e basta nel modo canonico, appunto anche quello che ti lascia un po' la mare in bocca, cioè sì, ho organizzato il concerto, però insomma a questo punto lo potevo anche andare a vedere in un locale e mi facevo magari meno fatica, no? Nel senso, ci deve essere qualcos'altro, insomma, qualcosa in più da metterci dentro. Non c'è forse un... mi viene da... l'ha presa bene, nel senso, tutto sommato potremmo usare questa cosa, che può dare però un uso il termine movimento, così che cioè un qualcosa di diffuso idealmente, culturalmente, così nei pischelli, nei kids, nei ragazzi, anche meno ragazzi. Certo, la stanchezza è data anche dal vedere che magari sei sempre le stesse persone, insomma c'è poco appunto spunto creativo in qualche modo. E comunque modo. Ha funzionato sta roba. Funzionato. Sì, sta funzionando. Le stesse persone che però in quel momento facevano qualcosa di diverso, perché magari erano le stesse persone che sarebbero venute al concerto, però in quel momento non erano dei partecipanti consumatori, ma erano le persone che contribuivano quanto noi, insomma. Va bene, allora avevamo detto che passavamo a Vibra. Sì, dico due parole sui Vibra, sì, perché sono un gruppo un po' outsider rispetto a tutti gli altri, nel senso sono gli unici che fanno elettronica, mentre tutti gli altri gruppi vanno insomma dall'hardcore al punk rock allo screamo, quindi sono appunto un po' gli outsider del festival, suoneranno il venerdì e definiscono la loro musica jao, come la musica delle favelas brasiliane, diciamo c'è questa ispirazione. Che però è qualcosa di estremamente vicino alla musica delle macchine, insomma, fatta con le macchine, che deriva un po' dalla tradizione elettronica in senso largo, a tutte le varie sfaccettature che ci ha avuto in questi tanti anni di suoni prodotti con le macchine. Quindi Vibra, qui abbiamo Muscoli Oro, che è una traccia che ci andiamo ad ascoltare subito, eccola qua. Muscoli oro, muscoli oro, muscoli oro, muscoli oro, oro, oro, oro, oro, muscoli oro. Oro, muscoli, muscoli, oro, muscoli, oro, muscoli, oro, dentro e sotto la nostra voce continua vibra. Direi di sempre prima abbassando il fischio che rientra. Eccoci qua. Allora, direi di affrontare ancora, andare avanti con questo discorso che si è dipanato in questi mesi e che ha portato sempre a questo Tilt Fest, perché appunto poi gli argomenti si sovrappongono, quindi a il discorso della socialità inteso genericamente, poi sì, e a questa cosa molto bella di cercare, però poi appunto c'è sta il quotidiano, poi ci stanno l'emergente, quello che tocca fa per forza e che quindi con cui bisogna confrontarsi. Quindi ci siamo trovati di fronte a cosa? Per quanto riguarda l'operazione Panico, diciamo, sì. Che sarà appunto diciamo, il fatto che compagni e compagne che vanno ai concerti, che fanno queste robe così, fanno pure molte volte delle lotte, delle battaglie, assolutamente, delle storie che vengono repressi per questo. Certo, anche perché questa operazione Panico, diciamo, è un cappello sotto cui sono stati poi riunite tanti atti di repressione che sono avvenuti a Firenze dall'inizio dell'anno scorso, appunto hanno visto lo sgombero di due occupazioni, Villa Panico e La Riottosa, due spazi dove appunto si organizzavano anche tutte queste iniziative, questi concerti, come proviamo a farli anche noi, e tante misure cautelari nei confronti di diversi compagni e compagne. Due di loro sono ancora in carcere, nello specifico per gli viene contestata insomma l'esplosione di un ordigno fuori da una sede di Casa Pound, che è scoppiato, l'artificiere l'ha fatto scoppiare, e in questo scoppio l'artificiere ha avuto dei danni fisici, diciamo, e quindi questi compagni si ritrovano delle accuse molto pesanti, come possiamo immaginarci. E quindi insomma questo festival è nato anche per sostenere loro, quindi tutto appunto, ci sarà invece il bar, cosa che altre volte non abbiamo fatto, proprio per provare insomma a riacimolare un po' di soldi da mandare a loro per aiutarli insomma in questo lungo iter processuale che sta andando avanti. Proprio in questi giorni ci sono udienze e insomma l'esito è ancora incerto, diciamo. Eh sì, e poi all'interno di tutte le iniziative che abbiamo fatto, e anche in questa, ci sarà uno spazio dove, una cosa che abbiamo già fatto, è andata in porto, è stata una cosa bella, dove si possono lasciare due cose magari scritte a questi amici che stanno, che adesso sono reclusi, e magari poi glieli mandiamo, cioè no, magari, cioè, sì. quello che viene scritto poi verrà mandato direttamente a loro. È un po' sempre così l'argomento che bisogna affrontare, delle persone recluse, che mo al di là del fatto che siano compagni o meno, una persona reclusa comunque si trova sicuramente in una situazione di non normalità, o comunque di una socialità, o comunque un problema, cioè il carcere è un problema serio, carcere o arresti domiciliari, insomma quello che cos'è, quali sono le loro sono proprio in carcere? Sì. Loro sono proprio in carcere. Sì, Pasca e Gespe sono i due compagni che sono in carcere. Ok. E quindi, insomma, avere penso un tipo di rapporto umano, una vicinanza così, sembra poco, ma è tantissimo poi in realtà per chi sta dentro, insomma. Sì, poi, tra l'altro loro so che hanno chiesto dall'esterno, se che chiedono sempre dei CD, cose da ascoltare, insomma, anche per al di là, diciamo, del supporto economico, sì, e al sì. di là delle parole, anche della musica da ascoltare, perciò se qualcuno anche quella è una roba difficilissima. Se qualcuno si dovesse, qualcuno o qualcuna si dovesse e volesse affacciare al Tilt, se ha qualcosa che anche non sia proprio che vuole, allora, guarda, che gli vuole mandare sull'argomento, mi introduco un attimo perché non so, adesso bisognerebbe capire qual è il regolamento del carcere dove stanno, perché in realtà alcuni carceri fanno entrare solamente i CD nuovi sigillati, cioè non sta dentro la plastica praticamente, perché fanno dei problemi a far entrare, che ne so, un CD masterizzato piuttosto che. E quindi bisogna però ecco, magari questa è una cosa di cui vi dovrete informare, poi magari avremo avremo modo di darne conto, però normalmente questa è, non sempre in carcere può entrare, insomma, del materiale usato, ecco. Un disegno sì. Senz'altro. Un disegno, poesia, assolutamente, un po' di calore umano, insomma. Certo. È più facilità di entrare. Benissimo, quindi però parlavamo appunto del finanziamento, di questo aspetto, così che poi alla fine uno va sempre a valutare, non sono magari delle grandi cifre o dei numeri enormi, però appunto si cerca di contribuire, di far contribuire come si può. Ecco, una parte sarà questo, un'altra parte vorreste... Sì, sarà un po' a sostegno delle attività del collettivo, nello specifico provare anche a mettere su un impianto che servirà a noi, ma anche a tutti gli altri, le altre che ce lo chiederanno, chiaramente, insomma, sempre con quello che è il nostro spirito nell'organizzare le iniziative. E chiaramente, insomma, bisogna anche pensare a sostenersi da soli, visto che appunto pratichiamo l'autogestione, non abbiamo contributi o aiuti esterni, quindi tutto quello che abbiamo ce lo facciamo da soli e non facciamo assolutamente autoreddito, non ci interessa guadagnare qualcosa da tutto quello che facciamo, ma chiaramente delle spese ogni volta che si organizzano delle cose ci sono, e quindi è bene avere un fondo cassa. Sì, poi uno degli argomenti che è venuto che è uscito all'interno delle nostre assemblee era anche quello un po' della qualità, nel senso che magari una persona si aspetta che va all'interno di uno spazio occupato e l'impianto fa schifo, si sente male, e noi vorremmo anche diciamo potenziare gli impianti che già ci sono, rimetterli a posto in modo tale che anche questo aspetto di sillogismo, che uno dice posto occupato si sente male. Sì, qui è anche un aspetto a cui noi teniamo, insomma. Questo con varie, magari chi si occupa professionalmente, che ci sta più in fissa, chi meno, insomma. Però devo dire che questo aspetto della qualità è testimonianza vostra, che anche diretta, che in realtà è un aspetto, è un fatto che si sta verificando, cioè che la qualità in realtà sia dal vivo e sia pure per chi produce, i gruppi stessi che producono poi del materiale, vuoi perché dal punto di vista proprio dei dischi è un discorso che abbiamo fatto tante volte, è diventato molto meno costoso, nel senso che poi con poche strumentazioni si riescono a avere dei risultati assolutamente soddisfacenti dal punto di vista sonoro, sia perché appunto poi in realtà qualche cosa da questo movimento dei centri sociali, insomma la gente ha acquisito proprio delle professionalità, poi vabbè, insomma, con tutte le critiche del caso che facciamo, però insomma a livello si è alzato. Sì, poi l'idea negli ultimi anni tanti posti si sente bene, ed è bene sì. Vi occupiate pure voi. Ma l'idea è anche un po' quella che ovviamente questa parte di soldi che investiremo in questi progetti qui non sarà necessariamente per comprare le strumentazioni nuove, ma nello spirito dell'autoproduzione rimettersi a posto, certo, quello che già c'è, e fare dei workshop, certo, affinché noi possiamo essere autosufficienti, nel senso si fa il workshop per rimettere a posto questo, come si fa? Io non lo so e lo vorrei sapere, anche per rompere il circolo un po' del come si dice, dei prodotti a scadenza, no? Per cui magari hai delle robe bellissime eccetera eccetera, ma che poi rispetto ai vecchi tipo di strumentazioni valvolari, magari cambiavi la valvola e te tenevi tutto il resto perché proprio la valvola era esaurita, adesso magari paghi un po' di meno il pezzo, ma quando è rotto lo butti. Sì. E questo non produce, non facciamo che riprodurre altro poi che quei canoni nella società che ci sono imposti in qualche maniera dal mercato, dall'industria. Bene, sono contento. Va bene. Quindi io direi che avevamo preparato le Murian pure un discorsetto, due parole le direi, insomma, perché sono una band. Sono una band romana. Romana. Che sì. Però fanno un genere un po' particolare. Un non genere. Sì, lo definiscono psycho afrobeat. Sì. Questa volta, però. Sì, detto, sì. Questa volta vogliamo spingerci e facciamo psycho. Se dentro pure loro vecchia tradizione romana. Io ci metterei bruto pop, ci metterei un po' di pezzetti di zoo, magari in qualche caso, insomma. Ce li vogliamo ascoltare. Lemurian, quindi a Radio Onda Rossa 25 o'clock al Tilt Fest, loro suoneranno sabato 20. mentre partono sempre i Lemurian sotto la nostra, le nostre voci, affrontava, poi appunto nella chiacchierata, soprattutto nei fuori onda, esce fuori sempre che ci stanno altri argomenti da affrontare. Questo è molto... Questi sono partiti dei Galasci, sì, sì. Sbagliato. Vabbè, fa niente, cosa. Vabbè, no, recuperiamo subito, perché avevamo detto. Non so, volevamo leggere una cosa al volo adesso oppure dopo, quando... Ma volevamo leggere una lettera scritta da Pasca, appunto uno dei due compagni che sono ancora in carcere a seguito di questa operazione Panico, appunto uno dei due che è accusato di questo... di questo ordigno che è stato messo davanti a questa sede, a questa libreria di Casa Pound a Firenze. Questo centro culturale. Sì. Facciamo commenti e vai. Leggo questa lettera. Sì. Leggo questa lettera che Pasca ha scritto a luglio. Ciao a tutte e tutti. Finalmente mi sono deciso pure io a scrivere due righe sull'attuale teatrino repressivo nei confronti di noi anarchiche e noi anarchici, che sta relegando in galera me ed altri due compagni. È da ormai circa 11 mesi che siamo imbrigliati nelle maglie della loro trappola. Gespe 11 mesi tutti in carcere, io 7 di carcere, 4 con obbligo di dimora e rientro notturno. Giova 2 mesi e mezzo di carcere più altri 8 tra obblighi, rientri e firme. Ma la loro famigerata operazione Panico, avviata a gennaio 2016, che è iniziata a colpire dal 31 gennaio 2017, ha inoltre regalato ad altre compagne e ad altri compagni giorni di carcere, arresti domiciliari e obblighi di dimora, rientri notturni, firme, divieti di dimora da Firenze e da altri assurdi divieti di dimora da Galluzzo, quartiere di Firenze dove era sita l'occupazione della Riottosa, che è stata sgomberata insieme all'altra occupazione anarchica cittadina, Villa Panico. Il tutto per una serie di avvenimenti accaduti in città. Un assalto alla sede di Casa Pound, due ordigni piazzati davanti alle sedi dei fasci, di cui uno a Capodanno 2017, dove nel tentativo di disinnescare l'ordigno ha perso mano ed occhio un artificiere e da questo avvenimento il reato di tentato omicidio, per cui alloggi in 3 siamo in custodia cautelare o in carcere. Un presidio antimilitarista non autorizzato, un corteo non autorizzato, il lancio di Molotov alla caserma dei carabinieri a Rovezzano in seguito all'arresto di due compagni e una compagna per una rissa con gli sbirri fuori da un concerto. Presidi sotto al carcere, scritti sui muri della città e infine i reati relativi all'avvenimento di Capodanno che loro pongono come perno centrale della questione. L'inchiesta che ha accelerato notevolmente i tempi repressivi dopo il 1 gennaio 2017 e dove non poteva mancare un'associazione a delinquere di incredibili colpi di scena, arresti, scarcerazioni, aggravamenti di misure per scritte, riesami, cassazioni, controriesami, GIP competenti, GIP incompetenti, capi della polizia e servizio antiterrorismo, unità operativa della polizia italiana e chi più ne ha più ne metta. Un pastrocchio giudiziario teso a colpire certe tipologie di pratiche, chi le mette in atto, perché non sottomesso al sistema o nemico di esso. I metodi di indagine poi sono stati più infami e squallidi, ma cosa vogliamo aspettarci dai nostri nemici? In particolare, per giustificare il tentato omicidio e l'altro reato annesso, detenzione, fabbricazione e porto d'arma da guerra, che vede imputati noi arrestati ed un altro compagno, intercettazioni di chiacchiere simpatiche tra amiche e amici diventano prove madre, frammenti di DNA prelevati a casaccio, segno indiscutibile di colpevolezza, stati d'animo emozionali e personali, sintomi d'ammissione. Per non parlare della loro meschinità nel tentare, con tutto quel materiale cartaceo che più di un'inchiesta giudiziaria pare un copione di un film già scritto, di dividere e mettere gli uni contro gli altri, i compagni e le compagne dell'inchiesta. Tutto ciò non è stato solo atto a trovare chi secondo loro è colpevole dei reati contestati, a fare arresti e sgomberare spazi, ma ha tentato di levare di mezzo la realtà fiorentina e di frammentare e dividere ancora di più la situazione. Bene, personalmente dico che ci hanno provato, ma non ci sono del tutto riusciti. C'è ancora chi si organizza, discute e agisce in città e chi è stato colpito dalla repressione in questo lasso di tempo è ancora lì, sulle sue posizioni, a testa alta. E penso che consapevolmente si ripeta. Io trovo giusto il mio percorso perché sono nel giusto. Questa è una citazione di una canzone del Dear Me Down. La loro repressione ci ha sì colpito, ma non attaccato del tutto, come era nelle loro intenzioni iniziali. All'oggi, come continuare? La loro repressione non attacca, attacchiamola noi. Sarebbe finalmente a questo punto importante ripartire, piuttosto che dalle discussioni e da mille ragionamenti sulla solidarietà in risposta alla repressione, da quelle pratiche che loro ci contestano e che a loro danno molto più fastidio dei nostri discorsi teorici. Dimenticare quest'anno e mezzo di batoste e ripartire lì da dove a loro è più conosciuto. Per noi dentro queste mura abbassandosi il meno possibile al loro potere e per chi sta fuori con la scelta delle armi che attua per il duello. Un saluto, un enorme abbraccio e un urlo carico di rabbia e amore a Gespe e Giova. contro il potere, contro l'autorità, per la libertà, per l'anarchia. Basta. Basta. Basta. Ok. Quindi una lettera, una missiva che viene direttamente dalla cella di Pasca, e una lettera comunque piena di pathos, insomma, di voglia di fare ancora questa testimonianza che le mura non fermano certo, insomma, chi si sente nel giusto. E quindi questo qui un po' pure a conclusione di, o se volete anche in apertura a quanto dicevate prima. E invece, appunto, dicevamo che poi in realtà, saltando appunto la palla in frasca, anche perché poi è difficile, no, aggiungere altro rispetto a una missiva di questo genere, dicevamo appunto, poi in realtà è proprio questo quello che probabilmente dà fastidio alle istituzioni, al potere, al modo di fare e di essere società in questo momento, appunto, ci sia delle persone che non demordono affatto e che vanno cercando ancora quello che è una via diversa, un modo diverso di vivere, più vicino, insomma, alle esigenze reali delle persone. E questa cosa qui si riflette probabilmente anche nel fatto che quando poi uno fa iniziative come le vostre, creano aggregazione in qualche misura e vengono persone e si riempiono di contenuti, si riempiono di robe che uno fa, insomma, al di là di parole. E quindi, se volete un po' dirci, oltre a, che ci dobbiamo dire, oltre iniziare a piene di altre cose, non so, te c'è una scaletta mentale precisa, non vorrei sconvolgere. No, beh, diciamo, una cosa che ci preme ricordare è che sabato alle 4 del pomeriggio ecco, ci sarà un confronto pubblico, una chiacchierata, insomma, che sarà un po' su tutti i temi di cui abbiamo parlato finora. Cioè, partiremo veramente da quella che è la nascita del nostro collettivo, perché ci siamo formati, appunto, quali sono state le difficoltà, le criticità, il disagio, come dicevi tu, che ci sentivamo dentro, cosa stiamo provando a fare. Chiaramente ci piacerebbe che questa cosa si spargesse, che altre persone venissero, che si creassero dei legami, delle collaborazioni, delle affinità. Insomma, non ci interessa assolutamente essere chiusi nel nostro gruppetto, ma il nostro spirito è sempre quello di allargarci, di confrontarci, di arricchirci con i discorsi degli altri e delle altre. Quindi questa chiacchierata che faremo il sabato alle 4 del pomeriggio per noi è molto importante, perché è il primo momento di confronto, in qualche modo il primo momento in cui ci apriamo veramente in questo modo, insomma, non solo attraverso l'iniziativa, ma proprio in un momento sediamoci, parliamo, confrontiamoci. E dicevate, tra l'altro, questa roba avviene, tanto per spiegarla meglio, avviene con i partecipanti, cioè coloro che saranno i protagonisti poi dei due giorni, cioè i vari gruppi che suoneranno, gli organizzatori, tra virgolette, che abbiamo organizzatori nell'accezione che abbiamo descritto prima, e poi chi. Speriamo più persone possibile che siano interessate, insomma, chiaramente. Sì, appunto, noi in questi due giorni, sempre parlando di delle cose che comunque vengono finanziate dal collettivo, ci sarà questa fanzine fatta con i contributi nostri, che sono usciti da riflessioni personali, e contributi che noi abbiamo chiesto ai gruppi rispetto alle domande che ci facciamo, anche sempre per scardinare un po' quella cosa che il gruppo viene a suonare, suona e se ne va. Invece noi vorremmo che tutte le persone che sono all'interno dell'iniziativa siano coinvolte quanto noi. E appunto ci sarà questa fanzine autoprodotta da noi, e la chiacchierata come titolo, dove siamo, dove vogliamo andare, un po' una riflessione su quello che è la, passatemi il termine che io odio con tutto me stesso, la scena attuale, lo stato attuale dei fatti, perché per esempio le occupazioni non sono più quelle di una volta, perché certe cose adesso si fanno in un modo piuttosto che in un altro, e niente, ci preme, almeno a me personalmente è la cosa che attendo di più da questi due giorni, e non sono i gruppi che mi vorrei vedere. Noi siamo sicuramente interessati più nelle domande che nelle risposte, e questa è una cosa che vorremmo affrontare tutti insieme, insomma. E, che dovevo dire? No, questo qui in virtù di quello che dicevi prima, che appunto pensavi che le assemblee erano delle cose pallosissime, esatto. Invece addirittura aspetta proprio più dei concerti il momento di... Sì, perché magari persone come me che per anni hanno bazzicato posti, locali, gruppi e quant'altro, avevano questo spauracchio di aprirsi e parlare come se dall'altra parte ci fosse una giuria. Invece almeno da parte nostra non c'è nessun tipo di giuria, anzi siamo aperti al confronto, è quello che vogliamo. Vogliamo nel nostro essere non necessariamente superficiali, vogliamo aprirci a quante più domande possibile, perché altrimenti ci chiudiamo in dogmi che non ci appartengono. E senza il timore di dire qualche volta una cazzata, perché no, poi, no. Oppure dire una cazzata. No, infatti ho sbagliato. Sì, infatti nessuno si deve sentire quando verrà un generale che magari dice una cazzata, perché poi se ne discute, e poi magari anche noi individualmente rivediamo le nostre posizioni. Insomma, non vogliamo dare niente per scontato, e per quello siamo non necessariamente superficiali, insomma. No, volevo solo dire che i testi che appunto ci saranno in questa fanzine, alcuni nostri, quelli dei gruppi, no, li troverete solo nella fanzine, ma i nostri li abbiamo pubblicati sul nostro blog nato da poco, che si chiama collettivo.nns.noblogs.org. Quindi per chi vuole farsi un'idea un po' di quelli che saranno i temi, gli spunti, potete andare lì e trovare appunto tanti testi. All'inizio avremmo voluto fare un testo unico che ci rappresentasse in qualche modo, ma in realtà abbiamo prodotto tanti contributi differenti, e trovare una sintesi sarebbe stato complicato, e anche ci sembrava che avrebbe un po' impoverito quelli che erano i nostri contributi. Quindi li abbiamo messi così, uno dopo l'altro, ne troverete un po', e quindi niente, leggeteli e speriamo che verrete alla chiacchierata sabato. Bene, se adesso volessimo dare un po' di ritmo, come ce l'avamo preparati? Io andrei con i Kalashnikov, solo, cioè non solo esclusivamente, ma anche perché una delle cose a cui che ci sta a cuore è quella, appunto, come abbiamo detto più volte, dei contenuti. E Kalashnikov è un gruppo che all'interno dei testi ha sempre portato avanti tante... cioè è un Kalashnikov, sì, collective, esatto. Quindi lavorano un po' a tutto campo, pure loro ormai nella multimedialità, su internet piuttosto che... Come? In radio. Anche in radio. C'è una voce di un fantasma che parla. C'è una voce di un fantasma. Non sappiamo se sta qui o meno, perché lui appare e scompare a suo piacimento. Sì, perché penso a Radio Onda d'Urto tengono ancora uno spazio radiofonico, peraltro, le ultime notizie che ho, forse sì, forse no. Attenzione che appare. Non sono sicuro che... So che lo facevano il martedì. Non so se quest'anno... No, giovedì, scusa. Sì, non sono sicuro che quest'anno hanno continuato con la trasmissione, però sono passati per Radio Onda Rossa con una serie di trasmissioni. Sì. Eccetera, anche loro grafiche, cioè poi parleremo pure delle grafiche e della parte visuale, diciamo, di Tilt. Però non veniamo i Kalashnikov, che già stavano andando sotto di noi, ma sentiamo una cosa un po' più moderna, che è del 2017, Algoritmo di Crisi. Eccoli qua, Kalashnikov Collective da Milano. Eccoli qua. sotto la nostra voce Orfani, e abbiamo ascoltato Hunger the Pain, Hunger and Pain, e la sentiamo due volte perché due volte abbiamo selezionato, sia io sia te credo che abbiamo selezionato la stessa traccia, quindi ho messo Orfani uno di sei fattoni, sì. Va bene. E allora, sempre mentre parliamo, sempre molto mentre parliamo fuori onda, escono di continuo fuori cose che vi eravate più o meno dimenticati, penso che insomma, le cose da dire, di vari partecipanti a vario titolo o contribuenti, diciamo, a vario titolo al Tilt Fest. Sì, uno dei contribuenti maggiori in qualche modo è stato Simone Lucciola, che suona nel Gioventù Bruciata, che è un gruppo di Formia nato nel 96, è un gruppo che mi sta particolarmente a cuore. E Blood 77. E Blood 77, esatto. E, suoneranno venerdì, Gioventù Bruciata, non di sabato come c'è nella locandina. C'è stato un change in line-up. Quindi locandina tra l'altro l'ha fatto Simone. Esatto, la locandina l'ha fatta Simone e appunto è stato un... E voi te la raccogliagli la colpa a quel punto, va bene, ti sei sbagliato la locandina te. No, che poi hanno cambiato il giorno loro. No, cioè, okay. Perciò nella locandina per strada c'è stata una line-up e quella giornata sta su nell'etere, diciamo. Okay. E no, lui è stato ha dato un grande apporto al festival, a partire dal fatto che si è accollato dei Fast Flipper, che comunque una volta che uno lo vede dice vabbè figo così, però il concepire quel tipo di flipper in modo così non è stata una cosa proprio semplice anche a detta sua, e lui ha contribuito anche con un contributo nella fanzine. E non per ultimo ci sarà una mostra di lavori di Simone, grafiche. Sì, che è un grafico incredibile. Ma è un'altra di quelle persone che ne pensa una e ne fa cento, quindi alle volte bisogna. Che poi una flemma invece incredibile. Vabbè, grande Simone, spesso, tra l'altro, magari non ci sente in diretta, ma se c'è qualche. O se sa che si parla un whatsappino, una cosettina, non so con quale mezzo comunica, perché io sono proprio, cioè non ho mezzi di comunicazione, forché il microfono della radio, quindi non so, però è presente. Sì, quanti sì, fai vlog, no, ma anche in questa fattispecie molte volte. Poi comunque mi sono trovato a parlare con lui di tutto il progetto di NNS, così, perciò. Lui si è voluto mettere proprio in prima linea su tutto, anche perché evidentemente era interessato nel progetto, e al di là che l'abbiamo chiamato, però lui ha accolto questa cosa molto positivamente. Lui si è messo in gioco, il promotore della fanzine la mette grandissima, non ha nessun problema a partecipare a, esatto, poi quando ha sentito che c'era una fanzine all'interno del festival ovviamente si è fomentato, hanno scritto un contributo molto bello, sì, il Gioventù Bruciata. Ma vecchi e giovani, quindi com'è la composizione un po' delle band? Beh, appunto, sì, ci stanno vecchi e più anziani, tipo i Kalashnikov, i Gioventù Bruciata, i Misantropus Taratina, e giovani tipo gli Atro, perché comunque penso coetanei miei, e DeLorean pure sono coetanei miei, insomma, comunque sì, vecchi e giovani, come hai detto te. Ne parlavamo proprio con Secchetto e Ivan, organizzatori, peraltro io sia Palusa, e proprio di questo parlavamo, di come sia importante pure come quella situazione sia diventata anche in veste estiva, perché poi appunto di festival in realtà ce ne stanno molti, non tutti probabilmente con un giusto spirito come mettevate in salto voi, però ecco. Sì, poi con Ostia Palusa è importante che anche ci sia questo interscambio generazionale, che perché alle volte ecco le incomprensioni vengono pure da questo in alcuni casi, per fortuna non troppo vabbè. No, comunque con Ostia Palusa e ZK c'è comunque una condivisione di intenti, e tra l'altro una cosa che non è uscita molto da questo festival, noi comunque nelle iniziative è facile che ci sia del punk, dell'hardcore, perché alla fine tutti veniamo un po' più o meno da quel mondo lì, però vorremmo aprirci ad altre prospettive. La musica non vogliamo che sia il centro dell'iniziativa, insomma. Più che altro che non sia per forza punk hardcore, ma appunto non ci diamo barriere di genere, appunto ci piace. Perché dovrebbero darci, non ci diamo barriere in generale, perché mai. Esatto. E poi ci stanno pure dei banchetti. Sì, allora c'è un banchetto appunto di una nostra compagna che fa parte del collettivo, che si chiama Disguido Tecnico. È un progetto legato ai fumetti che ha tante ramificazioni, diciamo. E la definizione di questi fumetti, che sono vari numeri, è rivista metasarcastica autoprodotta quasi alternativa. Questa è la definizione del progetto. Già questa vale quasi il progetto, insomma, nella riferita. Esatto. E poi c'è pure qualche altra cosa, se non sbaglio. Sì, allora, per quanto riguarda le performance, ci sarà questa performance chiamata Scatola Magica, che forse definire performance non è esatto, ma insomma c'è questo compagno che ha costruito questa scatola. Il tema è anticarcerario, per cui questa scatola al cui interno, diciamo, c'è un'evasione da un carcere, senza anticipare troppo, per cui una persona alla volta si va e si entra in questo mondo di questa scatola e si vede, insomma, succedere tutta una serie di cose. E anche questo progetto è benefit a sostegno dei detenuti. Poi ci sarà una performance invece con Lula Hop e Fuoco, quindi scenografica in questo senso. Poi ci saranno delle escursioni anarcoscettiche. Appunto è un nostro compagno che si paleserà in certi momenti della 2 giorni. Non precisati da nessuno, E ci parlerà dell'anarcoscetticismo, che insomma la sua visione, diciamo così, attraverso piccoli racconti, piccoli dipinti, diciamo, raccontati, ecco. Poi ci sarà anche un artista eclettico, Roger Insane. Sì, che fa rap poetry su basi elettroniche, e questo sarà il sabato prima dei concerti. E quindi la locandina non è assolutamente esaustiva, perché quindi sono cose anche che si sono aggiunte dopo, oppure comunque cose collaterali, vai. Sulla locandina non è presente, perché si sono aggiunti i compagni e le compagne della cassa antirepressiva La Lima, che saranno presenti al Bencivenga con il loro banchetto, portandoci delle nuovissime magliette che appunto sono a sostegno graficate da loro, e appunto le potrete trovare venerdì e sabato. E non per ultimo ci sarà, come anche in altre iniziative passate, la serigrafia aperta, e quindi chi vuole viene lì e si fa da solo, se uno ha voglia di farlo, non lo spingiamo a farlo, si serigraferà da solo la prima maglietta con la grafica del tizio. Hai detto anche esattamente come andava detto, serigraferà. Ci ha messo un'ora che stavo a cercare di concepire questo termine, insomma. Bellissimo. E se non ci stanno altri, e ci sarà, non ci sono? Magari dopo ci forse ci siamo scordati. Esatto, forse ce ne siamo scordati. Bene, siete scordati. Io direi Gioventù Bruciata e Misantropus. Sì. Ci siamo? Alla grande. E adesso? E adesso? Ora ti dico adesso cosa. Chiamerò qualche scagnozzo strafatto di crack per fare un lavoretto in questo cesso, con un paio di pinze e una buona saldatrice. Hai sentito quello che ho detto, pezzo di merda? Con te non ho finito neanche per il cazzo. Una cura medievale per il tuo culo. Persone violenta e antisociale, ritorno cruento all'istinto animale, terrore senza fine su favori oppressi, capismo, massacri, rancori repressi. Persone violenta, violenza, violenza, persone violenta, violenza, violenza. Yeah, battaglia senza ragione. Termino di massa per la religione. Sangue, dolore, odio, impotenza. Violenza che chiama altra violenza. Ragione, violenza. Violenza, violenza. Ragione, violenza. Violenza, violenza. anni dalla fine della guerra atomica. La monarchia degli Eurak, che unisce l'Europa all'Africa e agli altopiani del Tibet e che ha follemente scatenato la guerra contro il resto del mondo, dice d'aver vinto. Il pianeta, ridotto quasi interamente ad un putrescente deserto radioattivo, è ora abitato da uomini senza futuro. imagine that this line represents time. Here's the present, 1985, the future, and the past. Prior to this point in time, somewhere in the past, the timeline skewed into this tangent, creating an alternate 1985. Mezzanotte abbiamo fatto sentire un po' di quelle cose che ascolterete nella due giorni del Tilt Fest presso il Ben Ci Venga Occupato. Per l'esattezza ve li dico io, perché magari ce l'ho qua davanti ed è più facile. Abbiamo ascoltato Autunno, poi abbiamo ascoltato DeLorean, poi abbiamo ascoltato Ramones e poi prima ancora avevamo ascoltato, no, questo qua abbiamo ascoltato Collapse. Don't forget the metal. Bene, ci siamo, nel senso che adesso dobbiamo un po' quagliare il tutto. Quindi raccontare per filo e per segno come sarà, cioè per filo e per segno, citare come sarà l'iniziativa, come si svolgerà, gli orari, le partenze, gli arrivi, i contatti. quello che ci siamo dimenticati e dimenticate, e i saluti a tutti quanti, direi, come scaletta. Oh yeah. Per la, come piano per di uscita, di escape, potrebbe andare bene. Allora, per venerdì, allora, venerdì saranno Romanez, che vabbè, è un gruppo cover dei Ramones di Roma. Che vuoi di The Finest Ramones Cover Bands. Così è citato. Yeah. E Gioventù Bruciata, come abbiamo detto prima, hardcore punk da forme al 96, Cox in the Hall, che è un gruppo nuovo di vecchiardi, e che conosciamo un po' tutti, però che, lo dico, dai, visto musica che punk. È nuovo, chi ci suona, così tanto per lo sapevamo, c'è Massimone, un storico punk romano, Trottolino, e poi Enrico De Romanez, ecco, e vabbè, penso insomma, che sono loro più o meno, ci siamo. E Anonimo Ciociara non suoneranno per motivi fra tante virgolette personali, e Autunno da Perugia scrivono Vibra, da Perugia. Vibra suoneranno venerdì? Venerdì, sì, venerdì, sì, ok, sì, sì. Vibra, quindi. E Orfani è un gruppo, questo in fissa, che è un gruppo composto da persone che sono anche nei Romanez, un gruppo punk rock Ramones core, e Vibra, che appunto quella cosa che diciamo prima, di musica elettronica. Il sabato altro no, saranno gli no, tu c'hai la locandina, sì, vecchia, locandina. Pre Gioventù Bruciata, che hanno cambiato perfetto, giorno perfetto. E il giorno dopo Kalashnikov da Milano, e le Murian, ne abbiamo parlato abbastanza, Misanthropus, un gruppo doom di Latina che va avanti dagli anni 90. All Against All è un altro gruppo, è un gruppo nuovo di Latina, fatto di, per esempio c'era l'ex batterista dei Misanthropus e dei Senza Benz all'interno, quindi è sempre un gruppo nuovo ma vecchio, vecchio, beh, anziano. Tutto si rimiscela, insomma, sì, tutto sì, si ricicla in questo mondo, non si butta mai niente. Sì, purtroppo c'è poco da riciclare, più che altro. E poi c'è il cordone fiorentino con Carlo Stunga, che fanno hardcore da una vita, e DeLorean, che è gente sempre di Carlo Stunga, sempre rimiscelare, che fanno Power Violence, Collapse da Firenze, Trash Metal, e Atro da Roma, un gruppetto nuovo che fa posto hardcore. E nelle due giornate ci saranno appunto quelle cose che abbiamo detto prima, l'escursione anarcoscettica, la scatola magica, Rocker Insane e la mostra di Simone. Mi sono scordato qualcosa? No, la performance, poi quella con Lula Hop e Fuoco il venerdì, sì, sì, prima sì, dei concerti, che inizieranno abbastanza presto, il venerdì alle 7 e sabato alle 6, quindi venite presto, e sabato venite ancora prima, perché alle 4 c'è la chiacchierata, dove siamo, dove vogliamo andare, a cui appunto teniamo tanto. Per maggiori info, per maggiori, oppure se qualcuno c'ha da farvi delle domande, ipotesi, c'è un'email del collettivo, che è collettivo nns @autistici.org. Okay. Oh yeah. Okay. Però se c'è delle domande da fare, nel senso, venite. No, sì, chi non può, vabbè, comunque è bello, però chi può venga, ma anche all'assemblea, insomma siamo aperti a tante domande e poche risposte, insomma. Il blog com'era? Lo vogliamo ricordare? E il blog è collettivo nns.noblogs.org, al momento è un po' scarno, però ci trovate appunto i nostri iscritti, magari gli date una letta e vi fate un'idea sugli insulti che volete farci alla due giorni. Va bene, dai. Portate da mangiare, raga, perché là, come abbiamo detto, bella vita, perciò se volete mangiare, portate da mangiare, condividete. Sportate, certo, non siamo noi che vi cucineremo, insomma. E no, vabbè, nel senso, stiamo a fare un'iniziativa tutti insieme. Misanthropus, 9 minuti di The Gnomes. Oh yeah. E ce ne andiamo. The Ring Sound. Ciao. Ciao. Bene, il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, famigerati, CIE. Noi ce ne andiamo così, all'improvviso, alla chietichella, come si sa dire, perché sono passati 30 minuti dopo la mezzanotte, tanto le conclusioni di 25 o'clock le conoscete, le facciamo da tanti anni, per cui si parte subito con la sigla. E ci sentiamo mercoledì prossimo, dai! Radical minds.